il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Ci sono vite che bruciano troppo in fretta quando ancora ci sarebbero tante cose da fare e da dare agli altri, e oggi parliamo proprio di questo, di un grande musicista morto troppo presto. Lo facciamo anche grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, Settimio Cagnetti. Buon pomeriggio, Settimio. Buon pomeriggio, Enrico. Cos'è che ti ha spinto verso Joe Strummer? Cos'è che mi ha colpito di Joe Strummer? Sì. Di Joe Strummer, indubbiamente il fatto che lui fosse molto attento alle tematiche sociali. Certo. Per carità, nella musica rock ci sono tanti altri personaggi che sono stati attenti, ma lui in particolare mi ha sempre colpito. Mi ha colpito molto anche il suo modo di suonare la chitarra, la materia, in una maniera un po' rude, certo, molto un po' non molto raffinata, però indubbiamente di un impatto incredibile. Grazie, Settimio, un abbraccio. Prego. Buona puntata. Grazie. E così raccontiamo la storia di Joe Strummer, il leader carismatico dei Clash, il gruppo che ha dato passione al movimento punk negli anni 70, fine anni 70, anni 80, creando grandi canzoni, grandi album. La fiamma di Joe Strummer ha bruciato probabilmente troppo in fretta. Lui è morto per un difetto congenito al cuore. Era un uomo dall'energia esplosiva che non sapeva di avere proprio nel suo cuore quella bomba a orologeria che l'avrebbe fermato. Strummer era un vero rocker, era un ribelle, era insofferente nei confronti delle ingiustizie, uno dei pochi capaci di dare senso politico alle parole urlate dal palcoscenico della musica inglese di quegli anni. È stato il portavoce di una intera generazione, quello che ha traghettato il punk verso qualcosa di ancora più profondo. Eravamo nel posto giusto, nel momento giusto, con le cose giuste. Era una cosa da sballo. Eravamo come dei pirati che si stavano facendo strada a colpi di spada. Eravamo completamente fuori controllo. Eh sì, un pirata che solca i mari della ribellione con una insofferenza nei confronti dell'autorità che ha radici profonde e che affondano nell'infanzia, nel rapporto difficile col padre. John Graham Mellor, che è il vero nome di Joe Strummer, è figlio di un diplomatico, quindi nasce nel 52 ad Ankara perché il padre è lì in missione. Lui ha un fratello maggiore di poco più di un anno, che è David, al quale è legatissimo. Poi la famiglia si sposta, va in giro per il mondo, il Cairo, Città del Messico, e poi dopo due anni un altro trasloco a Bonn, in Germania Ovest. I due fratelli non hanno molti amici perché la famiglia continua a spostarsi e quindi possono contare solo uno sull'altro. Sono diversi tra loro ma molto uniti. Nelle foto dell'epoca David è biondo, delicato, sognatore, mentre Joe è bruno, sorridente e sicuro di sé. È un vero leader. My brother was very shy. Mio fratello era molto timido. Era un po' più grande di me, un po' più di un anno. Quando ci mandarono a scuola non disse una parola per un intero trimestre. Io ero il contrario. Ero un ragazzino sfacciato. I was a mouthy little git. E quando i due fratelli hanno 9 e 10 anni, i genitori, che devono tornare nuovamente in Africa, decidono di farli tornare in Inghilterra per migliorare la loro educazione. Insomma, li mandano, come da tradizione, in collegio. Then I came to England to boarding school. Quando arrivai in Inghilterra, fui mandato in collegio. Spesso penso ai miei genitori e a come mi fecero sentire. Ai tempi credevo che mi stessero allontanando, potevamo vederci solo una volta all'anno. Fu un vero cambiamento di vita, perché mi resi conto che dovevo dimenticarmi dei miei genitori. Il collegio dove John Mellor, che è il futuro Joe Strummer, e suo fratello David vengono spediti è una public school che, a dispetto del nome, in realtà è una scuola che accoglie ragazzi privilegiati. Ma i loro due, insomma, non si trovano esattamente come vorrebbero. La vita non è facile e devono sopportare piccoli soprusi ogni giorno. Capii da subito che dovevi avere il potere o venivi distrutto. Avevo una gang perché sapevo che dovevo rispondere con la violenza alla violenza. O eri quello che sopraffaceva o venivi sopraffatto. Così diventai uno dei peggiori bulletti della scuola, perché sapevo che non sarei stato protetto da niente e nessuno. Stavo bene a scuola, perché avevo il controllo sul mio mondo. I was in charge of my own world. Beh, oggi vengono fatte molte raccomandazioni ai figli sul bullismo, insomma, se quantomeno del problema si parla. Ai tempi di Strammer uno doveva cavarsela da solo, così come ai miei tempi, che erano gli stessi. Era una questione di vivere o soccombere, e Joe Strammer non aveva il carattere di quello che si piega all'autorità o alle prepotenze, a partire dal padre, che lui proprio non riusciva a sopportare. Il rapporto con mio padre era pessimo. Temevo di incontrarlo, anche se accadeva una sola volta all'anno, perché riceveva i miei brutti voti per posta e sapevo che si sarebbe arrabbiato tantissimo. Credo che sia per via della mia educazione, che ho sempre visto l'autorità come qualcosa da evitare e, se possibile, da attaccare. Avoided, if possible, attacked. Già questa frase è un piccolo manifesto programmatico, un manifesto punk, perché fin da piccolo lui usa la sua energia per non farsi prevaricare da quelli più forti di lui, però non si limita a resistere e lui cerca di reagire attaccando una società che non gli piace, che non vuole accettare per quello che è. Se il padre è l'immagine dell'establishment, Joe è la voce della sua ribellione, una ribellione che naturalmente passa per la musica. Il falco e il gabbiano. Joe Strummer, al secolo John Mellor, quello che sarà l'anima ribelle dei Clash, e trascorre l'adolescenza in un collegio esclusivo, però la vita non è tutta rose e fiori, perché nonostante lui sia un nottatore nato, la sofferenza è sempre pronta a manifestarsi. C'è un'unica cosa però che rende la scuola sopportabile ed è ovviamente la musica. First record I would have bought would have been I Wanna Hold Your Hand, maybe. I primi dischi che ho comprato furono, credo, I Wanna Hold Your Hand e il primo disco dei Rolling Stones. E ricordo benissimo la prima volta che la musica mi ha davvero colpito. Ero stato mandato in collegio e ricordo che stavo sentendo Not Fade Away dei Rolling Stones, che usciva da questa grande radio di legno nella sala comune, ad alto volume, altissimo. E in quel preciso momento pensai, questo è qualcosa di completamente diverso. Tutto il contrario della sofferenza che sento in questo posto. E credo che proprio in quel momento, come se vedessi una luce luminosa, mi innamorai della musica e inconsciamente presi la decisione di fare musica per il resto della mia vita. Anzi, che la musica avrebbe potuto essere la mia vita. That would be the way to live. Eh sì, la musica salva le vite di molti e in qualche modo riqualifica una generazione, quella del punk di fine anni 70, quella che aveva ereditato tutti i fallimenti dei fratelli maggiori, il 68, gli anni di piombo, eccetera, eccetera. Arriva il punk, che è una botta in faccia a tutti i ben pensanti. Se i giovani non contano nulla, vi obblighiamo almeno a scandalizzarvi al nostro passaggio. Ecco perché gente come Joe Strummer ha saputo raccogliere l'insoddisfazione dei ragazzi e farla diventare grande musica. Nel 1968 tutto il mondo stava esplodendo. Parigi, il Vietnam, Grosvenor Square, la controcultura. Credo che mi diede una bella spinta verso il punk. È stato un anno importante per la mia maturazione. E poi c'è un altro cruccio in arrivo, il fratello David, che è molto diverso, che si chiude in se stesso, che addirittura si iscrive al National Front, che è il partito nazionalista di estrema destra inglese, legge Mein Kampf. Insomma, un giorno non ce la fa più, prende delle pillole e lo ritrovano dopo 3 giorni. Tocca a Joe riconoscere il corpo. È uno shock che lo segna per il resto della vita. Da quel momento Joe cambia, diventa vitale per lui allontanarsi da un mondo perbenista e borghese che ha frequentato fino a quel momento e che in qualche modo è stato corresponsabile di questa fine terribile e di questo suicidio del proprio fratello. prende completamente le distanze da tutti, inizia a vivere per strada, non si lava più i denti, sembra un barbone, si arrangia come può, suona nella metropolitana, diventa uno squatter, abita le case lasciate disabitate dai proprietari, praticamente ai margini della società per bene. L'unica cosa da fare era prendere a calci la porta degli edifici abbandonati e poi andarci a vivere. Frequenta la scuola d'arte, poi si trasferisce nel Galles a Newport, lavora in un cimitero, viene licenziato dopo che lo trovano a dormire in una buca pronta per la bara. Io ero stato licenziato perché mi ero fatto un letto con i vestiti quando facevo il commesso nello stesso anno, però insomma la buca per la bara è un po' peggio, e accarezza l'idea di diventare disegnatore di fumetti, ma intanto fonda la prima band che non ha molto successo, anzi non ne ha per niente, si chiamano i Vulture, torna a Londra nel 74 e forma un'altra band, gli 101, dal numero civico della casa occupata dove vivono assieme. Radunai la gente migliore, gente completamente fuori di testa, in una casa occupata, e così mettemmo su la band, i 101. Fanno anche un singolo, si chiama Kiss to Your Heart, uno dei primi brani scritti da Joe. Cominciano a fare dei concerti in giro e lui è un ottimo frontman. In questo periodo lui comincia a farsi chiamare con il nome che si è scelto, Joe Strummer, lo strimpellatore, anche perché lui suona la chitarra in una maniera abbastanza particolare, la suona suonando contemporaneamente tutte le sei corde, è una come dire, un difetto tecnico che diventa in un certo senso una sua caratteristica. All'epoca riuscivo a suonare solo le sei corde tutte insieme, altrimenti non ce la facevo, soprattutto con i giri complicati. Per questo mi volli chiamare Joe Strummer, Joe lo strimpellatore. Quindi insomma poco virtuosismo, tra l'altro lui è anche un mancino che però suona la chitarra usando la destra, ha un'energia particolare. Insomma, dopo un concerto dei 101, Strummer viene avvicinato da Mick Jones e da Bernie Rhodes. Rhodes è un produttore musicale, Mick Jones è esattamente quello che mancava, è il Paul McCartney di John Lennon, è il Keith Richards di Mick Jagger, perché assieme nasce una delle grandi coppie del punk, forse la coppia del punk. Mi piaceva la band, ma Joe era qualcosa di speciale. Era il miglior frontman che ci fosse a quei tempi. E infatti i 101 stavano diventando la migliore band di Londra. E la coppia Mick Jones, Joe Strummer, mette in piedi un progetto che è decisamente nuovo, perché anche se di punk si tratta, è un punk diverso da quello dei Sex Pistols, che in quel momento sta infiammando, in qualche modo facendo da apripista a tutti. E Jones e Rhodes, che è il manager di questi ragazzi, capiscono che vogliono seguire le orme di un genere dal punto di vista strutturale, ma non dal punto di vista compositivo. E, insomma, Strummer è l'uomo giusto per Jones e viceversa, è l'incontro di quelli che segnano la storia del rock. Penso che per me Bernie sia stata una fortuna, un vero colpo di fortuna. Mi portò in macchina a Shepherd's Bush e lì, in una stanza sul retro, c'erano Mick Jones, Paul Simonon e Keith Levine. Io e Bernie entrammo, lui mi presentò a tutti, ci sedemmo su quello che riuscimmo a trovare e ci squadrammo. Il falco e il gabbiano. Oggi raccontiamo la storia di Joe Strummer, uno degli artisti che più hanno segnato lo scenario musicale contemporaneo, il leader dei Clash assieme a Mick Jones, però comunque lui è stata una delle figure più impegnate e rivoluzionarie della scena punk londinese. Ha reso il punk non solo una semplice moda musicale, che forse non è mai stata così, ma insomma non una semplice attitudine musicale, ma una vera e propria corrente politica che ha avuto un impatto molto preciso nella società degli anni 70. Con i Clash il punk incontra i ghetti suburbani, incontra il reggae, incontra la comunità nera, e quindi in qualche modo fa una cosa completamente diversa da quello che stavano facendo i gruppi come i Sex Pistols. La forza più grande è stata proprio quella, approdare a nuove sonorità da parte di Strummer. È un uomo che si è sempre sentito libero di muoversi, ma anche consapevole del fatto che la sua lotta poteva permettere agli altri di avere la sua stessa libertà. I just want to preserve, right? Voglio preservare la mia libertà personale. Voglio il diritto di decidere, ma non mi serve a niente se sono l'unico ad averlo. Tutti devono avere lo stesso diritto. Everyone's got to have it. Ma siamo rimasti alla fine dell'esperienza con gli 101, l'incontro con Mick Jones, insomma l'idea di formare una band. Il nome è già pronto, The Clash. Nella band c'è anche un bassista che rimarrà con lui fino alla fine quasi, e soprattutto che caratterizzerà molto il suono dei Clash, Paul Simonon o Simonon al basso, e alla batteria Terry Chimes. Il giorno che mi unì ai Clash fu come iniziare da zero. Da parte mia fu una mossa coraggiosa infilarmi in una cosa così diversa, con due tizi incontrati in una stanza di una casa occupata a Shepherd Bush. Ma capii fin da subito, senza neanche bisogno di parlarci, solo guardandoci negli occhi, che Mick e Paul erano diversi da tutti gli altri. I ragazzi si trovano in un ex deposito ferroviario. C'è già una distribuzione di ruoli abbastanza precisa, perché Mick Jones è il musicista e Joe Strummer è il cantante principale, l'autore dei testi, diciamo l'ideologo. È dall'insieme delle due cose che nasce la grande diversità dei Clash. Intanto Chimes viene rimpiazzato da Topper Eden, che è un grande batterista, fino a quando poi non incontrò anni più avanti l'eroina. La tecnica strumentale non è ancora grandissima, però c'è una personalità di suono assolutamente già unica. Quando scrivevo per i 101 lo facevo senza un vero scopo, non sapevo bene cosa stessi facendo. Ma poi Bernie Rhodes mi disse: scrivi di quello che ti tocca da vicino. Per me i Clash sono stati l'occasione per scrivere parole importanti. Il 4 luglio del 76 a Sheffield i Clash suonano come supporto ai Sex Pistols, ma in breve cominciano a suonare per conto loro, perché il punk sta esplodendo in tutta l'Inghilterra e i Clash sono quantomeno i numeri due, almeno dal punto di vista mediatico. E intanto si prova, si lavora molto. Ricordiamoci che nei primi anni della loro carriera i Clash fanno praticamente più di un album all'anno. Vivono in promiscuità, in convivenza con canzoni molto intense. E al posto del peace and love degli hippie degli anni 60, loro oppongono un concetto diverso: war and hate, guerra, odio. È una realtà molto particolare. Nella canzone Guns of Brixton dicono: tu apriresti la porta alzando le mani oppure impugnando una pistola se qualcuno bussasse alla tua porta, alludendo ai grandissimi scontri, ai grandi conflitti della Londra e dell'Inghilterra di quegli anni. L'attore John Cusack riassume molto bene le posizioni di Strummer. Stiamo parlando dell'interprete del film Alta Fedeltà, tratto dal libro di Nick Hornby e peraltro grande fan dei Clash. Non so se per Joe sia possibile separare la politica dall'arte. La sua è una specie di politica ispirata. Non ti domanda solo di mettere in dubbio l'autorità, ti chiede di esplorare la reale natura dell'autorità, di capire cosa significhi essere libero. Il primo album si chiama semplicemente The Clash, preceduto dal singolo White Riot. È già un boom di critica e soprattutto di adesione di base da parte del popolo punk. L'anno dopo esce Give Em Enough Rope, date loro abbastanza corda, e nel 79 quello che forse è il loro capolavoro principale, London Calling. Affrontano argomenti pesanti: la droga, il razzismo, la disoccupazione. La copertina di London Calling è precisa, c'è una foto fantastica in cui c'è Paul Simonon che sta per fracassare a terra il suo basso, e London Calling è definito uno dei più grandi album della storia del rock, e dei classici parla come l'unica band che conti. In poco più di 3 anni hanno sfornato 3 album che hanno fatto la storia del punk. Ma la ricerca non è solo con le parole, perché Mick Jones vuole andare oltre anche con la musica. Strummer è irrequieto, è affamato di novità per andare oltre dal punto di vista, come dire, politico e sociologico, ma insieme a Mick Jones vanno entrambi in Giamaica, perché lì uno troverà la musica e l'altro troverà le sue ispirazioni. Non cercavamo di suonare il reggae come se venissimo dalla Giamaica, ma è come se l'avessimo bastonato a morte con il nostro stile rock. E la cosa funzionò. E così, dopo London Calling, che già era un album doppio, quindi una scelta pericolosa dal punto di vista commerciale, arriva un album che diventerà triplo. Il titolo è Sandinista, che è il nome del movimento antiimperialista nato in Nicaragua, e lì ci sono sonorità ancora più nuove, ma una connotazione politica sempre più precisa, a partire dalla scelta vendere il disco a un prezzo contenuto, una scelta dovuta al loro pubblico. Strummer è sempre stato molto vicino al pubblico, alle esigenze di ragazzi sicuramente non abbienti. C'è una foto famosissima in cui Strummer aiuta dei ragazzi a entrare dal camerino per non pagare il biglietto al concerto dei Clash. Sandinista era un album triplo che vendevamo come fosse singolo. Volevamo fosse venduto a basso prezzo, perché pensavamo che i dischi in generale costassero troppo. Sandinista è un album molto innovativo, un album che divide, perché non c'è solo il reggae, c'è il jazz, c'è una specie di rap, ci sono molte canzoni, insomma è un album sul quale è aperto ancora oggi un grande dibattito tra tutti i fan dei Clash. E poi nell'82 arriva Combat Rock, che è l'ultimo album in cui sono presenti tutti i membri originali dei Clash. Poi viene cacciato Tope Redon, ormai incapace di suonare per la sua dipendenza dall'eroina. E poi arriva l'83, l'annus horribilis, perché viene licenziato Mick Jones per incomprensioni. C'è anche un film nel quale tutti spiegano cosa è successo, ma non si capisce bene neanche nel film. Strummer, sollecitato da Bernie Rhodes, decide di liberarsi di Mick perché, come spesso accade in quei casi, crede di farcela da solo. E i Clash vanno avanti e vengono presi due chitarristi per rimpiazzare Mick Jones. Insomma, ci sono varie vicissitudini, però non c'è più niente da fare. Quando si è sciolta questa coppia, è la fine dei Clash. 7 anni prima avevamo deciso che saremmo stati i più grandi di tutti e che volevamo dare un messaggio, ma siamo caduti in tutte le trappole in cui poteva cadere un gruppo che ha iniziato dal nulla ed è diventato famoso. Anzi, abbiamo inventato nuove trappole sul tragitto: la trappola del successo che ti dà la testa, la trappola del delirio di onnipotenza, la trappola dei drogati, la trappola di fare dischi troppo indulgenti con noi stessi, la trappola di rifare suoni ormai legnosi. Tutto questo è accaduto a ognuno di noi e ci ha svuotati di ogni forza. È una reunion dei Clash, non ci sarà mai. Incontri sporadici, anche qualche jam sul palco tra Strummer e Jones, quando passa un po' d'acqua sotto i ponti, ma nulla mai di concreto. Chissà se il tempo avesse dato la possibilità a loro di riparlarsi, forse ci sarebbe anche stato un giorno un altro album dei Clash. Ma lui, Joe, ricomincia da capo, vuole dare un colpo di spugna a tutto, e alla fine degli anni 80 in qualche modo è cambiato molto nella musica, e lui tinge di spiritualità il suo impegno politico, cerca la pace. La sua anima punk ha cominciato a, non dico ammorbidirsi, ma in qualche modo a lasciare spazio anche a altri valori. Intanto ha una famiglia, o qualcosa che assomiglia a una famiglia, ha due figlie, Jazz e Lola, e quindi una nuova moglie, Lucinda, che lo segue in questa avventura. I Falò diedero a Joe l'idea di poter formare una nuova band, che non doveva essere dello stesso genere dei Clash, ma un'unione di tutto ciò che stava ascoltando. Ebbe di nuovo la sicurezza che avrebbe potuto trovare gente che la pensasse come lui, per poter suonare insieme. E nel 1999 parte una nuova avventura di grande qualità, forse non di grande riscontro presso il pubblico. È un'avventura con una nuova band, Joe Strummer e i Mescaleros, 3 dischi, molti concerti e sicuramente una evoluzione di quello che avrebbero potuto essere i Clash, secondo sempre la mia opinione. Non dura a lungo, perché nel 2002, appena prima di Natale e appena dopo aver compiuto 50 anni, Strummer muore improvvisamente per un difetto congenito al cuore, al suo cuore. E voglio ricordare le parole che ha pronunciato in una delle sue ultime interviste. Non altri messaggi se non questo. Non dimenticate che siete vivi. E insieme alla famosissima frase "il futuro non è ancora stato scritto" e ha una serie di testamenti spirituali notevoli sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista umano. Qui il colpo d'ala probabilmente è durato per almeno un decennio nella fantastica e creativa vita del grande Joe Strummer. Se avete voglia di darci dei consigli, fatelo scrivendo al falcoilgabbiano@radio24.it, visitando la nostra pagina su radio24.it. pareri o tutto quello che volete dirci, fatelo anche attraverso i miei e i nostri social. E poi naturalmente c'è il podcast per ascoltare le puntate che avete perso o riascoltare le puntate che vi sono piaciute. Ciao, a domani.